Bene, siamo in collegamento registrato con un compagno che lavora nella ristorazione a Milano. È una registrazione perché effettivamente l'orario in cui andremo in onda venerdì pomeriggio è un orario di lavoro per molti e molte che lavorano in bar e ristoranti. Però insomma ci interessava farci una chiacchierata partendo da qualche considerazione. Insomma, in questi tempi si sta aprendo una stagione, quella estiva, dove è molto evidente che si stanno aprendo molte posizioni lavorative in bar e ristoranti. Si stanno aprendo non soltanto nei luoghi del turismo, sono molti diciamo, gli annunci di lavoro che riguardano anche le città, le metropoli, che sono un po' solite svuotarsi nel periodo estivo. E questa, diciamo, inizio di stagione capita con la riapertura del servizio ai tavoli in bar, ristoranti, e come un po' avviene, come un po' avveniva anche in passato. Si alza sempre un coro in cui manca la disponibilità di manodopera, lo sottolineiamo noi, a basso costo. Quest'anno c'è una particolarità sicuramente ancora più feroce. Si dice proprio che i giovani preferiscano il reddito ci di cittadinanza piuttosto che lavorare, non si fa alcun accenno alle paghe. Non si fa accenno a un anno e mezzo difficilissimo e non si fa neanche accenno al fatto come mai un bar, un ristorante si ritrova con tantissime posizioni scoperte. Sicuramente è un punto su cui andremo a dibattere durante questa chiacchierata, che cosa è stato quest'anno e mezzo per chi lavorava senza contratto nella ristorazione. Ma ecco, intanto benvenuto, e con te proverei un po' a fare un ragionamento che viene ancora prima di questo anno e mezzo di pandemia che ci è accaduto addosso anche a noi che lavoriamo nella ristorazione. Ciao, sì, allora, hai detto tutte cose molto interessanti che in realtà aprono un sacco di capitoli, perché ogni parola che dicevi mi si apriva alla finestrella, approfondimenti, quindi non sarà facilissimo mettere tutto in fila. Comunque, io partirei appunto da quello che era il prima. Premetto che io lavoro nella ristorazione, che è un po' come non dire niente, nel senso che è una categoria molto vasta. Io ho sempre lavorato in pub e birreria. Adesso per fortuna ultimamente in una birreria diciamo artigianale un po' più alla mano, tanti anni negli sport pub, quindi puoi immaginare il tipo di clientela, immagino che voi ne sappiate qualcosina anche a Roma. E quindi c'era tutta una serie di implicazioni anche nella ristorazione. Non tutti i posti sono uguali, ma non perché siano meglio o peggio. C'è il bar sul lido in spiaggia, c'è lo stagionale, c'è il ristorante di lusso, la trattoria, magari a conduzione familiare, c'è il pub, c'è il bar, quello diurno che ti alzi alle 3:30, 4 di mattina per fare il caffè e vai avanti fino alle 9 di sera. Insomma, è molto sfaccettato, quindi ovviamente ognuno di noi dal suo punto di vista parziale o meno parziale, ma di questo tipo qua. E, vabbè, Milano è una città un po' particolare, nel senso che pur essendo piccola, è attraversata da un sacco di tipo di redditi e anche da un sacco di tipo di lavoratori o di persone che cercano un lavoro. Quindi, rispetto a quello che dicevi, che non si trova la mano d'opera, la prima cosa che mi viene in mente è: sì, ma chi è il lavoratore della ristorazione? Io ho iniziato a 18 anni e ho sempre fatto questo, perché poi fondamentalmente mi piace anche, perché se dovessi pure fare un lavoro che non mi piace, sarei, insomma, già la vita è complicata così. Però ci sono anche un sacco di persone che non lo scelgono come professione, sono magari persone che, non avendo competenze particolari, come poi ero io, partono perché è la cosa più semplice. Se sei un po' sveglia, un po' sveglio, un po' skillato, poi le esperienze le ossa te le fai, cominci, poi scopri se ti piace o scopri se quando hai finito il tuo corso di laurea non ti serve più, diciamo, arrotondare, no? Per pagare l'affitto, e cambi e vai a fare quello che ti appassiona, per cui hai studiato. E poi ovviamente c'è l'immigrato che arriva qua, non parla la lingua, o la persona che, piuttosto che non fare niente, non può permetterselo, deve lavare i piatti, o a 4 euro all'ora, e quindi ovviamente è molto vasto il discorso. Quando si parla di ristorazione e quando tra compagni, diciamo, italiani, con i documenti in regola, ci mettiamo a parlare di queste cose, dobbiamo sempre ricordarci che lo facciamo da lavoratore, abbiamo a che fare con altre categorie di lavoratori diverse. E da questo punto di vista noi ci facevamo un ragionamento tra compagni a Milano del settore, pochini per ora, ma speriamo che questi dibattiti aiutino, proprio su questa manodopera, questo lavoro, perché è svalutato, si fa fatica a trovare il personale. Beh, principalmente perché per lo più viene sempre trattato come il lavoretto. Hai lavoro al bar, sì, ma di lavoro vero? Ma cosa vuoi fare da grande? Voglio lavorare al bar, oppure voglio non lavorare, sarebbe la risposta, però tanti che ti trovi come colleghi, anche bravi, anche mi viene in mente in particolare un paio di colleghe che ho io adesso, molto brave, magari non vogliono fare questo nella vita, appena avranno una possibilità di levarsi da una vita notturna, di orari improbabili, avere a che fare comunque con l'alcol, che non è una sostanza, come dire, con sole luci, avere a che fare con la clientela, col pubblico, con un certo tipo di contratti, anche faticoso, qualcuno giustamente non c'ha voglia. E però queste persone cosa fanno? Poi pensi da lavoratore, come dire, che difende la categoria, la corporazione quasi. Queste persone di che tipo di contratto hanno bisogno? Hanno le stesse esigenze, le stesse rivendicazioni che ho io? Il lavoro nero è una lotta a cui io tengo molto a lottare contro il lavoro nero sui luoghi di ristorazione. Ma il lavoro in regola, per quanto sia fondamentale per la sicurezza, per il diritto del lavoro, proprio quello basilare, a volte è un ostacolo. Se qualcuno allo Stato ci deve sfuggire, ritorno a quello che magari viene messo a lavare i piatti per una paga da fame, gli fanno pure pulire per terra, gli rubano sulla busta gli straordinari e tutto quanto, magari delle volte pure in nero, ma perché non c'ha dei documenti per lavorare in regola. E quindi io voglio fare della rivendicazione escludendo l'ultimo del mio reparto, del mio locale, della mia filiera. Non lo so. Questi studenti, queste persone che, come ho iniziato io, lo fanno un po' perché alla fine hanno bisogno di soldi. Cosa fai? Non sono certo il nemico. Il nemico è sempre il padrone, però delle volte la scelta di lavorare in nero, anche solo per questioni, mi viene in mente, i debiti con lo Stato, o perché banalmente il tipo di contratto che hai, il contratto a chiamata ti limita le ore, tu hai bisogno di lavorare di più perché c'hai figli a casa, perché c'è una situazione, fai più ore di quelle che dovresti, te le pagano in nero, di più, di meno, è una cosa antisindacale, non lo so, cioè, non sono riflessioni banali e io non ho una risposta, però questa è la prima cosa su cos'è il mondo della ristorazione visto dal punto di vista del lavoratore. Può Certo, facciamo servire. bene a porci tutta una serie di domande anche da compagni, da compagne che comunque non si approcciano magari alle lotte guardando al settore lavorativo come qualcosa di slegato da tutto il resto, guardando anche alle recenti lotte che non si sono neanche spente in questo anno e mezzo di pandemia, ovvero quella dei facchini, dei braccianti, dei riders, giusto per dire chi sta più o meno nella nostra stessa filiera, e di fatto anche la rivendicazione dei documenti, quella contro la repressione dello Stato, contro le frontiere, sono lotte che vengono portate avanti di pari passo, proprio per una visione completa delle nostre esistenze. Di pari passo intendo con la contrattualizzazione. Esattamente, fa parte proprio della stessa filiera, come hai detto tu, il fatto che ci sia, come all'interno di una filiera ci siano delle situazioni di privilegio da andare a scardinare, nel senso di cercare di riportare tutti perlomeno in condizioni accettabili di partenza. C'è anche la questione di, come dire, che all'interno della filiera ci sono parti che emergono, sono più in vista, è più difficile andare a fare dello sfruttamento, non è impossibile, lo fanno tutti i giorni, ma è più difficile fare dello sfruttamento direttamente in faccia al consumatore finale, che adesso chiede anche una certa, come dire, patina di accettabilità del lavoratore che si vede davanti. Il lavoratore del call center non lo vede nessuno, lo manda a cagare quando gli risponde al telefono. È un Certo. esempio stupido, però la persona che ti serve da bere tutte le sere, se è un luogo con dei clienti abituali o che ti porta da mangiare tutti i pranzi, perché vai lì durante la pausa dell'ufficio, lo umanizzi un po' di più, quindi è più difficile. Quello che raccoglie il pomodoro che ti ha fatto la salsa della pizza, ovviamente non calcoli neanche che esista, i pomodori nascono notoriamente in barattolo. Quindi quello che dici è giustissimo. Infatti qua poi subentrano gli attori economici, cioè lo Stato che è quello che regola, no? Tutta la questione di come si svolge il lavoro, di come viene normato il lavoro, che a sua volta preme sul padrone, sul datore di lavoro, imponendogli delle volte delle regole che sono molto difficili da seguire, immagino soprattutto alle situazioni più piccole. Cioè, i regolamenti sono, ho presente ovviamente l'HCCP, tutte le regole normative ASL della non ARIA, cioè sembrano scritte apposta per far cadere in contraddizione. In questo caso, come dire, da lavoratore potremmo anche dire un problema del padrone, ma nella ristorazione esistono anche, chiamerebbero padroni di se stessi, forse da sé, non lo so, cioè persone che si sono aperte l'attività come farebbero l'idraulico. Alla fine, avere un bar in quartiere che fa il caffè non penso sia proprio un'attività da bieco capitalista. Quindi questo Stato Assolutamente. che preme sul padrone, a sua volta, cioè lo Stato pretende che vengano rispettate le norme che impone, ma impone norme che non possono garantire la sopravvivenza di uno che c'è un piccolo bar, e quindi lo portano a fare della compressione salariale, ammesso che abbia dei dipendenti, a sfruttare il dipendente, a fare del nero e tutte queste cose che sappiamo benissimo. E qui c'è un po' la contraddizione che tante volte nella ristorazione il padrone non è il nemico diretto, è come concepito il consumo del divertimento, proprio il consumo del cibo, dell'alcol fuori casa, parlando anche di stagione estiva, no? Come dicevi tu prima. Perché le ferie vogliono dire non fare niente, no? Sostanzialmente, magari anche andare a farsi una camminata in montagna una notte ferie, bisogna aprire per le ferie, non perché la gente si deve rilassare da un anno stressante o da un lavoro di merda. Bisogna riaprire perché c'è un altro settore dell'economia che lavora quando la gente non lavora. Mettiamola così, sto dicendo un po' di banalità magari. A quel punto sei un Sì. settore economico e devi funzionare. E quindi questo è lo Stato che impone il padrone delle regole, il padrone che schiaccia il lavoratore per riuscire ad avere il suo profitto, e il lavoratore su chi si rifà? Cioè, o si spacca di cocaina dal mattino alla sera e si brucia tutti i soldi che avrebbe messo da parte, sto immaginando alcune stagioni estive che ho visto, o trova una situazione veramente confortevole, oppure accumula una quantità di stress che poi deve comunque far uscire in qualche altra maniera. Allora, intanto buono insomma, descrivere anche che cos'è la stagione turistica, ma è qualcosa che potremmo riportare un po' alla vita di tutti i giorni. Di fatto noi lavoriamo nel tempo libero delle persone, fosse anche la pausa pranzo da un ufficio, siamo in quel tempo nel flusso di una metropoli, di una città. Un ragionamento che vorrei provare a fare, è bene che l'hai introdotto anche su qual è la pressione fiscale che riguarda un piccolo proprietario di un'attività, che in questo momento, leggendo anche le offerte di lavoro in giro, e si parla così per renderci conto, non soltanto tra chi è attento a questo settore, si parla più o meno di 10 ore di lavoro al giorno con turni spezzati, con proposte più o meno di 600-700 euro al mese. Ovviamente di contratto non si parla, questo dando uno sguardo veloce a quello che c'è in giro. La richiesta è di manodopera che sia esperta e giovane, e a me sembra quasi che si crei costantemente questo vortice, per il quale a un certo punto, raggiunta un certo livello di specializzazione nel mestiere, nell'impossibilità poi di davvero crescere di livello lavorativamente in termini proprio di stipendio, molto spesso si fa la scelta di aprire un'attività e con la stessa difficoltà a poter contrattualizzare tante persone quanto servono a ricoprire i turni lavorativi. Sì, è una questione molto reale e anche molto delicata, perché credo che in giro per l'Italia, ovviamente anche all'estero, ma non ne so molto, ci sono compagni, anche persone molto sensibili a questo tipo di temi, che si sono aperti la loro attività per sottrarsi a un certo tipo di sfruttamento. In alcuni casi riesce ad andare bene, per fortuna, in alcuni casi o il modello scelto non funziona, oppure effettivamente non c'è una via d'uscita se non, cioè, la pensione del nostro lavoro, tra virgolette, visto che di pensione vera è difficile parlare, poi vedremo, perché sono veramente pochi. Secondo me la generazione di chi faceva il cameriere negli anni 60, secondo me non c'entra niente con quella di oggi. Per tanta gente che appunto poi magari si è aperta al bar e l'ha tirato avanti finché è riuscito a stare in piedi da anziano. Dicevo, la pensione di questo lavoro è far fare a qualcun altro il grosso degli sbattimenti quando non ce la fai più e stargli un po' a tirare le fila a gestire una piccola attività di fondo, perché non bisogna anche nascondersi che tante volte non è volontà di profitto, ma che ovviamente un paio di compagni più grandi che fisicamente non potrebbero fare i turni che faccio io, che facevo io quando avevo 18 anni. Io stesso non faccio più turni di quando avevo 18 anni. Io ho iniziato facendo domenica e lunedì 14 ore al giorno perché dovevo coprire l'altro cuoco che aveva i 2 giorni liberi. Così o niente. Poi ovviamente col tempo si cresce. Anche riguardo alla, come dire, alle soddisfazioni in termini di retribuzione, in termini di orario, di miglioramento di mansioni, è molto raro trovare qualcuno che ti possa offrire un effettivo miglioramento o anche solo di cambiare reparto, cambiare mansione quando non ce la fai più a reggere una cucina, ti mettono magari in banco, al banco perché hai acquisito delle competenze in più o qualcuno che stava al banco tutto il giorno magari comincia a fare un part-time, ma è ferocissimo in questo senso il mondo della ristorazione. Se a 45-50 anni chiedi di andare part-time, è molto facile che magari per affetto, io penso aziende di media dimensione ti tengano per un po' e poi a un certo punto dicano: ah, mi spiace, non rendi più come quando avevi 30 anni. E cosa facciamo? Niente, rimani a casa. A quel punto, come dici tu, l'unica via d'uscita che uno vede è stata parte dei soldi e aprirsi una piccola attività, però non è facile uscire neanche perché cosa fai? Ti apri una piccola attività, non rispetti per niente le leggi, lottando contro i mulini a vento della burocrazia dello Stato, oppure cerchi di rispettarle anche se ti fanno cagare, ma non riesci a stare dietro ai tuoi dipendenti. Non c'è una risposta facile su tutto questo. Credo che una delle risposte sia nelle relazioni che costruisci sul luogo di lavoro. Cioè che quando cresci in un ambiente con dei colleghi, delle persone che incontri, non necessariamente che la pensano uguale a te politicamente, poi quello aiuta molto, ma costruendo una rete di relazioni si riesca magari, forse, poi a costruire delle attività che funzionino con delle persone di cui ti puoi fidare. Quindi magari adesso non so immaginarmi un assetto societario, forse la cooperativa può essere l'unico modo con cui con altre persone del mestiere ti vai ad aprire la tua piccola attività e non hai dipendenti. Certo, non ci guadagni bene, assolutamente, però può essere l'unico modo di sfuggire a uno sfruttamento esagerato, ma almeno ti dividi i turni e non ti fai turni di, come dici tu, 20 ore. Per esempio, un settore a cui non si pensa che è stagionale, parlavo recentemente con il mio cliente che è gelataio, sono due soci di una piccola gelateria a Milano, loro lavorano 7 su 7 per tutti i mesi di apertura. Quello che fanno è fare a turno a chi va a casa un po' prima la sera, un giorno uno, un giorno l'altro, tranne venerdì, sabato e domenica che si fanno una roba tipo 18 ore, dal mattino presto quando fanno i gelati fino alla sera quando chiudono tardi. È vita quella lì? Non lo so. Le proteste in piazza che ci sono state da parte di alcuni ristoratori qualche tempo fa ci pongono un po' una domanda, ovvero di fatto sicuramente se lavora il ristorante, l'attività a cui insomma siamo dipendenti, lavoriamo anche noi, cioè una possibilità sicuramente se ha in contratto di campare molto meglio rispetto a quanto è stato preso con la cassa integrazione in questo tempo, per non parlare di chi neanche non ha visto la cassa integrazione perché non aveva un lavoro in regola. Ecco, quelle piazze hanno visto anche banchisti, camerieri, cuochi, ovviamente che hanno vissuto condizioni difficili, scendere in piazza al fianco di chi aveva delle imprese. Voi che chiacchierate vi siete fatte? Che impressioni vi siete fatti? Se quelle voci potevano essere anche quelle dei dipendenti? Allora, qui è un argomento molto delicato perché, come dire, come quando studi la storia, no? Più ti avvicini al presente, più è delicato leggerlo, diventa anche molto personale la visione. Quindi metto il disclaimer iniziale. Dalle chiacchiere che ho fatto con colleghi e con amici, ma anche con qualche cliente che a sua volta lavora in ristorazione, ci sono due o tre aspetti che vale la pena sottolineare. La prima reazione tra compagni del settore, quando ci siamo guardati, abbiamo detto: queste proteste hanno delle rivendicazioni sbagliate, ma sarebbe giusto protestare. Il motivo per cui non si protesta con le rivendicazioni, che secondo noi sono più corrette, è perché probabilmente non c'è una visione visione di classe, per proprio usare il vecchio Carletto, non siamo noi lavoratori a chiedere allo Stato di metterci in condizioni, mettere i nostri padroni in condizioni di, a loro volta, mettere noi in condizioni di lavorare, ma sempre ricordandoci che non è che stiamo regalando niente a nessuno, è sempre il nostro tempo e la nostra fatica che fa portare avanti come dire, il dividendo a fine anno al padrone, e che il rischio di impresa è quella cosa di cui il padrone, in una ristorazione, ma come dappertutto, si dimentica sempre, che poverino, lui ha un sacco di tasse da pagare, poverino, non lo fanno lavorare, però in fin della fiera, ci sono anche quelli che si fanno un gran culo, ma in fin della fiera chi gli porta a casa plusvalore e il suo dividendo a fine anno sono delle persone che non sono tutelate per niente, anche solo dal contratto nazionale del commercio, che è un contratto schifoso. Non siamo tutelati per niente, ma non senti mai alzarsi una voce da parte dei padroni in difesa del lavoratore. Io ho in mente EPAM, che è l'Associazione dei Pubblici Esercizi di Milano, che molto meritoriamente fa delle belle mail dissociandosi dalle proteste troppo estreme e ti spiega per filo e per segno come ti devi comportare per non violare la legge, ma non ho mai visto, mai sentito che EPAM prendesse posizione su quella che è il ritardo della cassa integrazione o quello che fanno, cioè quello che riguarda i dipendenti. Poi magari è sfuggito a me colpevolmente perché sono un radicale, quindi magari guardo solo quello che voglio vedere. E quindi intanto partiamo che chi protestava erano padroni o quei lavoratori che si identificano col concetto del lavoro e mi faccio il culo perché un giorno voglio essere padrone a mia volta. Poi, che lì dentro ci fosse del buono, ovviamente se ne può parlare. Io ho sentito anche dire da un cliente appunto del mio locale che fa il ristoratore, dire alla fine c'erano quelli di Casa Pound perché alla sinistra non gliene frega un cazzo della gente che lavora. Vabbè, un ragionamento molto profondo come puoi immaginare, però è proprio il classico lavoratore che si identifica con: io vorrei essere il padrone, un giorno averlo io il BMW. È un po' quella cosa lì. D'altronde ci sarebbe tanto da dire su come viene vista la ristorazione all'esterno, cioè su come viene narrata il mondo della ristorazione e quindi come queste proteste possono essere viste. Cioè, il lavoratore che fa una vita normalissima come tutte le persone di questo mondo, semplicemente che la fa, per esempio, sulla notte, a orari invertiti, o con degli spezzati terribili, una persona che non può vedere mai i figli, perché al mattino, forse riesce a portarli a scuola al mattino se non lavora in un bar che apre presto, se lavora al ristorante forse ce la fa, se no i figli non li vede mai, se non la domenica, ammesso che abbia la domenica libera, perché se ha il giorno libero il lunedì o il martedì, come tutti quelli che lavorano in ristorazione, non vede i figli, però la narrazione che trovi in televisione sono solo i ristoranti, gli chef, diciamo, la parte più bella, no? Del lavoro, la parte divertente. E quindi, secondo me, queste proteste scontano molto il fatto che ci sia, da un lato, una mancata solidarietà, che io chiamo di classe, magari in modo un po' vecchio, un po' semplice, tra chi fa questo lavoro. E qui si aprirebbe tutto un capitolo su come si aprono delle relazioni all'interno di un settore di lavoro che è parcellizzato per definizione. E dall'altro lato, che chi si immagina la ristorazione si immagina i programmi della televisione e quindi non capisce quanta fatica ci sia dietro. Cioè, uno chef che ti urla addosso, penso riguardi l'1%, forse meno di quelli che lavorano, insomma, chef intendo uno stellato, che ti urla addosso perché è impiattato male con la rucolina, non riguarda nessuno. Quello che ci riguarda è che non riusciamo a vedere il fidanzato o la fidanzata perché non abbiamo un orario decente libero nella settimana. E quindi è chiaro che quando vai a protestare insieme a dei padroni, di fatto hai delle visioni diverse. Poi chiudo solo perché ci tengo a puntare il dito contro una persona in particolare, a Milano, Paolo Polli, quello che si era incatenato all'Arco della Pace, che guidava un po' le proteste finché non hanno preso una strada un po' troppo movimentata, lui si è tirato indietro, è un noto sfruttatore di lavoro nero ed è anche abbastanza molesto con le dipendenti, ma su questa cosa diciamo che io non insisto perché eventualmente è chi ha subito che deve tirare fuori la cosa, però diciamo che nei bar del dopolavoro dove si fa bersi i cocktail dopo il servizio questa cosa si sa ampiamente, è uno che apre e chiude società in maniera abbastanza oscena, mettendo nella merda un sacco di gente. Quindi ti fa capire anche perché poi la gente non va a quelle proteste prendono una certa direzione. Allora, dato che stiamo accennando a questo anno e mezzo, ti va di darci qualche suggestione su come l'ha vissuto te personalmente, che considerazioni ti stai facendo rispetto il mestiere? Insomma, abbiamo parlato di diversi attori, dello Stato, dei datori di lavoro, abbiamo accennato anche all'utente e a che tipo anche di empatia, perché è un lavoro che è empatico, è un lavoro di relazione con gli altri, di ascolto, non so, qualcosa di personale, non soltanto considerazioni molto puntuali che hai fatto fino adesso. Ok, allora ti dico, qua andiamo veramente sul personale, nel senso che devo per forza raccontare qualcosa della mia esperienza. Io ho appunto la fortuna, ma perché sono venuto via apposta da un altro locale per venire qua, di stare in un'azienda, sicuramente non è perfetta, è un noto birrificio artigianale, è un'azienda con le spalle abbastanza larghe da essere stata in piedi, seppur con qualche scossone, ma adesso già con gli incassi ultimamente molto solida, quindi noi siamo tranquilli da quel punto di vista, come dire, del lavoratore che non teme di perdere il lavoro dopo domani. Tanti miei amici o l'hanno perso o non sapevano se l'avrebbero perso o no. Io in questo mi sono sentito molto fortunato. La cassa integrazione, ovviamente, i primi mesi è stato un problema, poi è stata col secondo lockdown anticipata dall'azienda. Quindi, da un punto di vista, come dire, di lavoro, proprio fiscalmente parlando, a livello di stipendio, non è andata male come a tanti altri. Quello che però è successo è che, da un lato, questa è una cosa divertente. Un mio collega a stacanovista, il direttore del locale dove lavoro, è un mio amico, ci conosciamo da anni, alla mia età, e lui è una di quelle persone che, sai, quelli proprio nella ristorazione si fanno il culo, che a volte ti viene da dirgli, ma chi te lo fa fare di fartelo così tanto? Lui è tornato dal lockdown che non c'era più voglia di fare niente. Perché io prendevo 700 euro per non fare niente, per tornare al discorso che facevi all'inizio, no? Reddito di cittadinanza, in questo caso purtroppo cassa integrazione, cioè, sai, tra 700 euro per non fare niente e 1500 per lavorare 14 ore al giorno, 6 giorni a settimana, quasi quasi, e quindi questo è un po' così. Però su come si è vissuta quello che dici tu anche sul rischio della salute, beh, è molto interessante perché psicologicamente io sono molto legato al fatto di stare con dei clienti che poi tante volte non li sopporto più perché non c'è voglia di stare lì a fargli da psicologo, babysitter, assistente sociale, tutte queste cose qua, e anche servirgli una sostanza che li pone in condizioni di cui poi, cioè, devi occuparti, non so come dire. È come dai una sostanza a qualcuno di cui poi ti devi occupare perché tu gli hai dato quella sostanza. Certo, lui era consenziente, ma diciamo che un po' ti fai delle domande su questo nel corso della vita. E come tanti di questi si ponevano rispetto al fatto quando vieni al bancone, per favore metti la mascherina. Io non sono uno particolarmente rigido sulle norme anti-Covid, però io i rischi me li prendo con chi voglio io. Nelle situazioni in cui voglio io, da lavoratore, mi devi tutelare. E questa è la mancanza di empatia che è venuta fuori totalmente con il virus, ma c'è sempre stata nella ristorazione. Tu, come dicevi prima, la gente si sta divertendo. Fammi divertire, cioè come, no, io vorrei che batte le mani, balla, pagliaccio, cioè, portami la birra, portami la pizza. Quella mancanza di empatia c'è sempre stata. Il fatto che tanti, i clienti abituali, l'abbiano capito e siano stati attenti, alcuni altri vengano lì senza nemmeno indossare la mascherina entrando nel locale. Li sgridi, sempre un po' bonariamente, con quel fare da genitore, ma lo dico nel modo più tenero possibile, di dire dai, non mettermi in difficoltà, aiutami anche tu. C'è la polizia che viene a farmi i controlli tutte le sante sere, mettiti sta mascherina. E così hai anche un po' di rispetto del fatto che io da qua non mi posso spostare. E tu mi vieni a sputazzare addosso le tue pene della vita. E tanti si seccano e ti mandano a cagare, gente che magari conosci da anni. Cioè, ma tanto non è vero niente. Sì, ma non mi interessa se non è vero niente. Sono un lavoratore, tutelami anche, non sfogare su di me anche il fatto che per tutto il giorno in ufficio ho dovuto portare la mascherina e giustamente quando sei al bar non c'hai voglia, beh, ma io sono al lavoro. Quindi un po' anche quell'aspetto affettivo verso la persona con che hai come cliente, che poi in fondo diventano anche delle conoscenze, quasi degli amici, comunque a volte ti accorgi che ti vede sempre solo come la macchinetta che gli dà la birra media. Questo un po' mi è dispiaciuto. Guarda, bello sentire queste considerazioni anche perché, diciamo, ci fa sentire meno soli un tipo di confronto del genere. Non so, vuoi aggiungere altro? Hai tutto lo spazio che vuoi. Ma guarda, la chiacchierata è veramente interessante. Poi mi sembra che ci siano dei begli spunti da cui partire. Però, siccome io sarò in turno durante la trasmissione, la riascolterò volentieri il sabato sera e vediamo. Secondo me, cioè, se saltano fuori delle cose interessanti, sentirsi un po' meno soli su questo tipo di considerazioni su questo mondo è già un bel punto di partenza. Perché poi magari non c'è direttamente il modo di come dire, di mettersi in gioco nella propria città. Mi immagino magari qualcuno che ascolta da una piccola città di provincia, una situazione del genere, può anche empatizzare con quello che ci diciamo, che vi direte nella trasmissione, ma non è facile mettersi direttamente in gioco, però già fare dei confronti, come dire, una buona volta, questa è una mia vena polemica personale, una buona volta anche sul lavoro tra compagni, perché non bisogna dividere la vita a metà, il momento in cui si lavora e il momento in cui si fa i compagni col tesserino e punti militanza. Cercare un po' di mettere insieme gli aspetti della vita fa sentire un po' meno soli anche chi veramente al giorno libero, il mercoledì, non c'è un evento da nessuna parte, tutto il divertimento di cui può usufruire, e qua proprio parlo di me, è un divertimento consumistico, e i compagni li becca solo proprio al presidio, al carcere, perché non puoi non andare, cazzo, piuttosto prendi 2 ore di permesso se te lo danno, o quando succedono cazzi grossi, ecco, insomma, sarebbe bello cominciare a parlare di come si sta anche nella vita di tutti i giorni e non dividere in due il mondo della vita lavorativa e della vita politica, che poi coincidono in buona parte. Questa è l'unica cosa che mi sento di aggiungere.